Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il mondo della fantascienza, nella letteratura e al cinema, è popolato da creature spesso non umane. Alieni, cyborg, mostri, mutanti, robot, che compaiono per mettere in discussione le certezze razionali che abbiamo sulla Terra e aprire la strada a una possibile altra lettura dell'universo che contempli l'esistenza di pianeti diversi dal nostro. Per convenzione, tutto comincia nel 1926, quando in America esce la prima rivista tematica, Amazing Stories. Certo, ci sono stati illustri precedenti, come Frankenstein di Mary Shelley, ma è proprio in questo periodo che il genere inizia ad appassionare il grande pubblico, non soltanto sulla carta. Il merito, senza dubbio, va in gran parte al capolavoro del muto Metropolis, diretto da Fritz Lang, che con la sua trama apocalittica e il suo scenario avveniristico è stato il modello per gran parte dei film di fantascienza che sono seguiti, Terminator, Guerre Stellari, ma soprattutto Blade Runner, diretto nel 1982 da Ridley Scott, e tratto da un romanzo di Philip Dick, precursore del cyberpunk. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. L'esplorazione dello spazio, l'incontro con creature ultraterrene, amichevoli o pericolose, l'avvistamento di UFO, il paranormale, il viaggio nel tempo e l'intelligenza artificiale. Nella fantascienza tutto è possibile. E in questo risiede il suo fascino, perché l'uomo usa l'immaginazione per superare i limiti imposti dalla realtà. Ma paradossalmente, la fantascienza è un mezzo efficacissimo per spiegare questa stessa realtà. L'inquietudine che genera l'arrivo dell'alieno, una figura misteriosa che non conosciamo. Che cos'è se non la paura che abbiamo del diverso all'interno della nostra società? E la minaccia di un attacco da parte degli UFO non corrisponde forse al terrore di fronte a un'aggressione esterna alla nostra intimità? Inoltre, la vittoria della natura sulla tecnologia non celebra forse un messaggio ecologista? Hollywood ama la fantascienza e per mettere in piedi i colossal che conquisteranno il mondo spende milioni di dollari. I produttori con i piedi a mollo nelle piscine delle loro sontuose ville in collina non si preoccupano di investire perché sono certi che con qualche weekend di programmazione il botteghino li ripagherà. Lo sa bene James Cameron, che per Avatar ha sborsato più di 400 milioni di dollari e dopo sole 2 settimane dall'uscita aveva già superato il miliardo di incassi. Il concetto è quello di guidare a distanza questi corpi che si chiamano Avatar. Sono il risultato di DNA umano, mischiato al DNA degli indigeni. Un Marine nel corpo di un Avatar è un mix potentissimo. Tu dammi quello che mi serve e io farò in modo di farti guarire le gambe, le tue vere gambe. Come no, sì signore. Ti somiglia. Questo è il tuo Avatar. Avatar ha conquistato svariati premi e riconoscimenti, Oscar, Golden Globe, nastri d'argento, ma soprattutto si è accaparrato 11 Golden Scroll, vale a dire statuette a forma di Saturno racchiuso in un anello di pellicola. E questo è il simbolo dei Saturn Awards, assegnati ogni anno dai membri dell'Academy of Science, Fiction, Fantasy and Horror Films alle migliori opere di fantascienza, fantasy e horror relativamente a film e serie TV. Parteciparvi è prestigioso, si tratta certamente di un traguardo ambito per registi e attori affini al genere. E proprio tra questi, candidato più volte come miglior protagonista, c'è lui. Un uomo che è stato un robot sullo schermo e che per il suo perfezionismo potrebbe sembrarlo anche nella vita. Oggi a Destini Incrociati vi vogliamo raccontare la sua storia. Il suo nome è Will Smith. Will Smith. Well, the plane landed, and when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I can say that this cab was rare, but I thought, man, forget it, yo, home's the Bel Air. Questa è la maxi storia di come la mia vita sia cambiata, capovolta, sia finita sottosopra, canta Will Smith nella sigla del telefilm che all'inizio degli anni 90 l'ha fatto conoscere anche in Italia, Willy, il principe di Bel Air. La serie racconta le avventure di un giovane afroamericano di Filadelfia, Will appunto, che piomba nella vita agiata dei suoi zii che vivono in uno dei quartieri più in di Los Angeles, Bel Air. Feste, musica rap, amici strampalati e avventure divertenti, il tutto condito da buoni sentimenti che trionfano sempre. Ovunque il programma è un successo, che non si spegne nemmeno con le repliche a distanza di più di un decennio. Ah, Willy! Nessun segnale di papà ancora! Quello è tuo padre o è un rinoceronte senza il grande corno? Oh, vado a nuotare nella vasca del bagno! Cartoon! Ascolta, dobbiamo affrontare il nemico frontalmente. Se lui annusa la paura, attaccherà. Uomini, avete osato disobbedirmi. Stammi a sentire, papone bello. L'idea di girare Willy, il principe di Bel Air, è venuta a Benny Medina, manager musicale di grande esperienza, che non ci ha messo molto a convincere la NBC a produrre lo show. In fondo raccontava la vita stessa, un poco romanzata, di Will Smith, partito dal ghetto e approdato, grazie al rap, nel glamour di Beverly Hills. Will Smith, classe 1968, nasce e cresce nella classe media di Filadelfia. La sua è una famiglia numerosa, è il secondo di quattro figli, ma mamma e papà hanno una piccola ditta di refrigerazione che consente a tutti di vivere, se non proprio nell'agiatezza, almeno nella serenità economica. Non ci hanno mai fatto mancare nulla. A Natale c'erano sempre i regali sotto l'albero ed eravamo felici. E certo, i fratelli grandi dovevano passare i vestiti ai più piccoli man mano che crescevano, ma questo si fa in tutte le famiglie. Anch'io l'ho insegnato ai miei figli. Volevo che imparassero il valore del denaro. Il razzismo spesso non è altro che una guerra tra poveri, ma questo non esime Smith dall'esserne vittima. Nel suo quartiere ci sono molti afroamericani, ma la convivenza con i bianchi, nonostante il sogno di Martin Luther King, non è ancora una strada del tutto in discesa. Discriminazioni, violenza, ogni giorno c'è qualche episodio che segnala che c'è ancora bisogno di lottare. E così Will passa le giornate tra scuola, il campo da basket e la musica rap. L'hip hop è la cultura del ghetto, di chi si riconosce come facente parte di quelle comunità giovanili nate in prevalenza tra gli immigrati neri e latini. Il movimento è partito verso gli anni 70, quando nel Bronx, il block duro di New York, la gente ha incominciato a riversarsi per le strade suonando, ballando e cantando, mentre qualcun altro di notte lasciava la sua impronta sulla città con i graffiti. Si tratta di una cultura urbana sorta come urgenza di espressione che nel corso degli anni 80 è diventata una moda in grado di rivoluzionare, oltre alla musica, l'abbigliamento e l'arte. Io e i miei amici indossavamo magliette e pantaloni extra large e non ci separavamo mai dalle nostre scarpe da ginnastica. Si stava tutti insieme dove c'era qualche panchina, con il ghetto blaster acceso. Qualcuno breccava, qualcun altro improvvisava rime rap. Era bello. Io sono partito da lì e una parte di me sarà sempre lì. La musica per Will e i suoi amici sembra essere solo un gioco, ma lui ha davvero una marcia in più. Nelle sue rime mette tutta la sua voglia di raccontare storie, non soltanto di dolore ed emarginazione, ma anche di racconti positivi, di speranza. Cantare e suonare per Will non significa ribellarsi, o meglio, non soltanto. Quello che cerca è anche la leggerezza, il divertimento, il colore in un mondo che sembra dividere qualsiasi cosa tra bianco e nero. E una sera, a un party, incontra il socio ideale, il DJ Jazzy Jeff, con il quale diventa il duo hip-hop Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Ci siamo incontrati a un party. Lui metteva la musica e mi ha dato un microfono per improvvisare. Eravamo in perfetta sintonia e la gente si stava divertendo un mondo. Da quel momento abbiamo deciso di lavorare insieme e non ci siamo sbagliati. Jazzy Jeff and the Fresh Prince sfondano, anche grazie ai loro video comici che vanno in onda su MTV, diventando addirittura dei tormentoni. Vincono un disco d'oro superando i 2,5 milioni di copie, mentre il singolo Parents Just Don't Understand conquista il primo Grammy rap di sempre. Cappellini da baseball, canottiere oversize su jeans extra large. I due passano di serata in serata inebriandosi di successo e di soldi. Ed è qui che il cerchio si chiude, perché la serie Willy il principe di Bel-Air, nella quale peraltro Jazzy Jeff interpreta proprio lo strampalato amico di Will, racconta esattamente questo: la storia di un ragazzo afroamericano di Filadelfia che viene catapultato nel mondo del lusso, ma senza mai dimenticarsi le sue origini. Had a ball, cause they were pointing and whispering as I walked down the hall. I got home and told my mom how my day went. She said if they were laughing, you don't need them, cause they're not good friends. For the next 6 hours, I tried to explain to my mom that I was gonna have to go through this about 200 more times. So to you other kids all across the land, there's no need to argue, parents just don't understand. All'inizio degli anni 90 Will Smith ha poco più di 20 anni e una carriera già avviata sia nella musica che nella TV, dal momento che la serie è basata sulla sua vita. Willy, il principe di Bel-Air, è un grande successo, prima solo in America e poi in tutto il mondo. Non riuscivo a crederci, la mia vita era perfetta sotto ogni punto di vista, ero giovane, carino e mi pagavano per fare musica e divertirmi con gli amici. Mi sembrava un sogno. E poi le ragazze, lo so, molte erano conquistate più dal personaggio che dalla persona, ma ammetto che a volte ne ho approfittato anch'io. Will Smith fa diventare oro tutto quello che tocca, avranno certamente cominciato a pensare in molti. Infatti, forse per merito della sua freschezza, forse per il suo sorriso rassicurante, non ha mai sbagliato un colpo. Sempre ineccepibile, mai una caduta di stile, mai una scelta sbagliata, mai un errore di valutazione che potesse in qualche modo incrinare le sorti di una carriera che nel mondo dello spettacolo è già di per sé così effimera. Il destino sembra offrire a Will, nella vita e nel lavoro, la perfezione delle macchine, quasi un presagio per i ruoli poco umani che spesso finirà per interpretare. Quando nel 1993, dopo un paio di filmetti di poco conto, il regista Fred Shepsi lo chiama a interpretare il ruolo di Paul, un giovane che si finge figlio di Sidney Poitier, nella pellicola 6 gradi di separazione, anche il cinema si accorge di lui. L'immaginazione è stata così svilita che a un certo punto l'immaginazione, anziché essere il perno della nostra esistenza, oggi è sinonimo di qualcosa che è totalmente al di fuori di noi, come la fantascienza o, che so io, l'uso delle fettine di mandarino o di arancio sulle braciole crude di maiale. Ecco, una ricetta estiva fantasiosa. E Guerre Stellari, pieno di immaginazione. E Star Trek, così pieno di immaginazione. E Il Signore degli Anelli, tutti quei nanetti. Quanta immaginazione. Oggi l'immaginazione ha cessato di rappresentare il nostro collegamento, il collegamento più profondo tra la vita interiore e il mondo che è al di fuori, in cui viviamo tutti. Cos'è la schizofrenia se non lo stato in cui quello che c'è qui dentro non corrisponde a quello che c'è di fuori? Perché l'immaginazione è diventata un sinonimo di stile? Io ritengo che l'immaginazione sia il passaporto che noi ci costruiamo per entrare nel mondo della realtà. Non è sempre automatico per chi fa televisione passare al cinema. Anzi, semmai, vige un pregiudizio per cui molti registi snobbano coloro che arrivano dal piccolo schermo. Figuriamoci un personaggio come Will Smith, mito degli adolescenti che tra un concerto rap e una merenda lo guardano litigare con il cugino Carlton nella serie TV che l'ha reso celebre. E invece, l'interpretazione di Smith in 6 gradi di separazione è da applauso. Non è una parte facile, ma in pochi giorni di programmazione convince pubblico e critica. Fred Shepsi non solo non si pente di averlo scelto, ma è orgoglioso di avergli dato per primo un ruolo importante. Lui ha creduto subito in me e non mi ha mai trattato con i guanti. Quando giravamo non faceva sconti. Io ero il più inesperto e lui continuava a rifare le scene. Pretendeva da me la stessa perfezione che pretendeva dagli altri. Tutto questo periodo mi ha insegnato moltissimo. È stata una vera palestra, non solo di lavoro, ma anche di vita. La strada di Will Smith comincia a essere in discesa. La musica ormai è solo un secondo lavoro e se il duo Jazzy Jeff and the Fresh Prince sopravvive, riuscendo a fare ancora qualche singolo, è solo merito della popolarità di Will, che dalle strade di Filadelfia si sta avvicinando sempre più al dorato mondo di Hollywood. La sua arma principale è quel mix unico di ironia su un corpo statuario che nel 1995 lo fa diventare il protagonista scatenato e donnaiolo di un grande successo di botteghino, Bad Boys. Cerchiamo di non sbagliare. Niente sparatorie, niente morti ammazzati. Non vorrei perdere il posto proprio adesso. Beh, Se la memoria non mi inganna, l'ultimo paio di crucifissi l'hai surgelati tu. La prossima volta che devi uccidermi, fallo dopo che ci hanno dato le informazioni che ci servono. È solo un suggerimento, che ne dici? Gli afroamericani a Hollywood non sono moltissimi. Quelli che sono davvero riusciti a sfondare si contano facilmente. E lo stesso Smith non manda a dire quello che pensa su questa situazione. So che i produttori sono in prevalenza bianchi e quindi per questo fanno film su persone con le quali possono identificarsi. Il razzismo a Hollywood ci sarà sempre, ora lo affronto meglio, ma all'inizio ne soffrivo moltissimo. Non è una forma di discriminazione esplicita, ma molto più subdola, sottile, che si insinua nelle scelte quotidiane delle case di produzione. La città dei sogni, che si proclama accogliente e tollerante, non è davvero così aperta. Di certo però è meritocratica, soprattutto quando al talento di un attore corrisponde la sua capacità di portare la gente al cinema. Will Smith ce la fa perché è tutto questo. Un eccezionale talento e una macchina da soldi che non si inceppa mai. I produttori si rendono conto che puntando su di lui recupereranno sempre tutto e con gli interessi. Infatti Smith, chiamato a interpretare Independence Day, che racconta con portentosi effetti speciali un epocale attacco alla Terra da parte degli alieni, ancora una volta fa centro, conquistando addirittura una nomination come migliore attore ai prestigiosi Saturn Awards, i premi per la fantascienza. Will Smith è così perfetto da sembrare lui stesso un alieno, un cyborg programmato per il successo. È incredibile quanto a lui venga tutto facile, dalla musica al cinema. E questo naturalmente provoca non poca invidia, come quando il rapper Bow Wow, giovane star con una punta di presunzione, l'ha definito trovata pubblicitaria, sostenendo che Smith non si meriti affatto di essere lì dov'è. Will ha fatto spallucce ed è andato avanti per la sua strada, dimostrandosi come al solito inattaccabile sotto ogni punto di vista. Sicuro di sé, forte, perfetto. Forse perfino un po' troppo. Ma tra poco il destino gli offrirà la sua occasione per rischiare. Arriverà nella sua vita un incontro inaspettato grazie al quale Will imparerà a lasciarsi andare, perché essere più umani a volte è la vera forza. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1996 e Will Smith, rapper di Filadelfia, famoso per la sitcom ispirata alla sua vita, Willy il principe di Bel-Air, sta mettendo sempre più da parte la musica in favore del cinema. Nonostante i tentativi di essere politicamente corretta, Hollywood non è poi così propensa ad accettare gli afroamericani, come ha ammesso lo stesso Smith. Eppure lui, determinato, professionale e con tutte le carte in regola, diventa in poco tempo una macchina da soldi per i grandi produttori. Dopo Bad Boys e Independence Day, è la volta di Men in Black, il film cult che ripropone in chiave comico-avventurosa l'ipotesi dell'esistenza degli uomini in nero, un'organizzazione segreta molto citata nelle teorie del complotto sugli alieni che all'oscuro di tutti, incluso il governo, controllerebbe l'afflusso degli extraterrestri sul nostro pianeta. Quelli che eseguirete sono una serie di semplici test di abilità motoria, concentrazione, resistenza. Vedo che c'è una domanda. Sì, mi scusi, forse ha già risposto a questa domanda, ma perché siamo qui esattamente? Figliolo? Secondo tenente Jake Jensen, West Point, diplomato con lode. Siamo qui perché volete il meglio del meglio del meglio, signore! Cos'è che ti fa ridere, Edwards? Sembra Capitan America, è un fenomeno quello. Il meglio del meglio del meglio, signore. Sì, con lode. È veramente su di giri, ma non hai idea del perché siamo qui. Questo è molto, molto divertente per me. Però voi non state ridendo. Men in Black è un successo planetario che fa guadagnare a Will un'altra nomination dopo Independence Day ai Saturn Awards come migliore attore di fantascienza. Ma la definitiva consacrazione arriva nel 2001 con Ali, nel quale interpreta il pugile Cassius Clay, meritandosi addirittura una nomination all'Oscar. Will Smith, che ha già provato l'ebbrezza di ritrovarsi improvvisamente ricco grazie al successo del suo album rap fatto con DJ Jazzy Jeff quando era molto giovane, adesso cerca di tenere i piedi per terra e di non lasciarsi andare, come ha fatto la prima volta, a feste, donne e acquisti incontrollati. Stavolta era molto diverso. Non ero più un ragazzino che si ritrovava improvvisamente migliaia di dollari in tasca. Lavoravo per il piacere di farlo, per passione. E poi avevo a fianco Giada, che mi ha sempre aiutato a considerare quali sono le cose importanti. Quando è uscito Men in Black, stavamo per avere il nostro primo figlio. Ed era quello ciò che più contava al mondo. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist. No names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. La prima volta che Will si imbatte in Giada, anche lei attrice e cantante, è immediatamente colpo di fulmine. Lei partecipa a un provino per Willy, il principe di Bel-Air, e lui capitola di fronte agli occhioni dolci di quella ragazza, che in realtà nascondono un temperamento di ferro. I due si salutano, rimangono in contatto tramite amici, e soltanto dopo anni, quando Will ha ormai un matrimonio fallito alle spalle e un figlio, si fidanzano. Bastano pochi mesi per rendersi conto che non avrebbero più potuto fare a meno l'uno dell'altra. All'inizio della nostra storia, tutto quello che poteva andare male è andato male. Abbiamo imparato presto chi eravamo, cosa volevamo, quale strada prendere per ottenerlo. Non penso sarei la donna che sono oggi senza il suo amore e senza la sua visione della vita. Will, dal canto suo, senza Giada, non muove un passo. Non c'è scelta professionale o privata che faccia senza prima consultarla. È lei che gli ha consigliato, vedendolo sempre disponibile con tutti e disposto ad adattarsi alle esigenze degli altri, di fondare una sua casa di produzione per dare vita a progetti che siano suoi dall'inizio alla fine. E una sera Will e Giada sono stretti sul divano, come amano fare quando non hanno obblighi mondani. Nelle uscite ufficiali tengono molto al look, che spesso scelgono di abbinare. L'affiatamento a volte passa anche da qui. Di certo i due hanno moltissimo in comune, a cominciare dai gusti in fatto di cinema. Al di là dei film americani, dove spesso recitano quelli che sono i loro amici, gli piace scegliere piccole produzioni europee pressoché sconosciute. In particolare, hanno appena scoperto un giovane regista italiano di talento che riesce con il suo lavoro a dare l'impronta di una generazione. Per Will è una vera sorpresa, anche perché non c'è niente di più lontano tra questo cinema delle piccole cose e i colossal dagli scenari apocalittici che lui è abituato a interpretare. Si tratta di un ragazzo timido e un po' impacciato, e il suo nome è Gabriele Muccino. Gabriele Muccino. Dovevo assolutamente incontrarlo. Sentivo che insieme potevamo dare moltissimo. Volevo sapere tutto su di lui, da dove veniva, come aveva cominciato, cosa l'aveva spinto a raccontare storie. Gabriele Muccino, nato nel 1967, è un romano doc, figlio di un dirigente Rai e di una pittrice affermata. In famiglia si respira un'aria di creatività che spingerà anche il fratello più piccolo, Silvio, a dedicarsi al cinema, prima come attore, poi come regista. Gabriele, finito il liceo, si iscrive alla facoltà di lettere alla Sapienza, ma resiste pochissimo. Non è quello il suo sogno, vuole scrivere sceneggiature. Ed è così che si candida da volontario come assistente prima di Pupi Avati e poi di Marco Risi. Non gli importa se non è pagato, vuole soltanto fare esperienza, stare a contatto quotidianamente con dei maestri che possano insegnargli più di 1000 libri. Sul set cresce. Il primo giorno porta i caffè alla troupe, il secondo si occupa degli attori, il terzo affianca un operatore dietro alla macchina da presa. Ogni ciacca è una scoperta che gli rivela tutta la meraviglia che ci sta dietro a una produzione. Al centro sperimentale di cinematografia affina la tecnica, ma è l'istinto a muoverlo fin dall'inizio. L'umanità della gente che incontra è quello che sente di dover raccontare. Tanto che Stefano Accorsi, protagonista dei suoi lavori e suo grande amico, ha per lui queste parole. Secondo me c'è una cosa che nei film di Gabriele comunque vengono... c'è la forza di raccontare le fragilità, che è una cosa che secondo me non capita così tanto. È come se ci fosse un filo virtuale che sovrasta l'oceano e lega Muccino e Smith. Anche lui infatti comincia con la TV. Proprio mentre in America sta andando in onda Willy, il principe di Bel-Air, in Italia, all'interno della trasmissione Mixer di Giovanni Minoli, i docufilm portano la firma Muccino, così come alcuni brevi filmati per Ultimo Minuto. È un modo per prendere confidenza con il video, per acquisire dimestichezza con la macchina da presa. Per questo, quando gli propongono la regia di alcune puntate di Un Posto al Sole, la prima soap opera italiana, Muccino accetta con entusiasmo. È un ragazzo timido, che parla pochissimo, e tuttora non ama rilasciare interviste, probabilmente anche per via di quel problema che ha fin da piccolo, quello della balbuzie, su cui adesso è in grado di scherzare, ma che fino a poco tempo fa lo inibiva moltissimo nel contatto con gli altri. Il suo lavoro lo aiuta a esprimere quello che ha dentro e che non riesce a tirare fuori con le parole. E se già il suo primo lungometraggio, datato 1998, Ecco Fatto, gli fa conquistare un premio al Torino Film Festival, è con Come te nessuno mai che entra a pieno titolo nel mondo del cinema. Oh, ti devo dire una cosa. Che è successo? Te la ricordi Valentina? No. Come no, ti avevo parlato di lei. Quella bellissima che poi si è messa con Martino, un amico mio. Hai capito chi? No, beh, non importa. Beh, ci siamo baciati stamattina. Stesso Martino. Io Valentina. Ah, vabbè, tutto bene, lei c'è stata. Lei c'è stata, ma non so se ha fatto tanto bene. Perché? Perché sta ancora con Martino. Da quanto ci sta? Quasi 5 mesi. E lei ha fatto la cazzata. Eccola là. Il protagonista è suo fratello Silvio, giovanissimo, mentre la trama affronta la vita di alcuni liceali alla ricerca di qualcosa in cui credere, tra la scoperta dell'amore e le occupazioni della scuola. Silvio si lascia guidare da Gabriele, spinto da una forma di venerazione nei suoi confronti che crescendo metterà in dubbio. Oggi i due fratelli, entrambi amati e affermati, non si parlano ormai da 2 anni, ma ancora qui si percepisce quell'affinità con l'attore che per Gabriele è essenziale prima di cominciare qualsiasi lavoro. A raccontarlo è Pier Francesco Favino. È un regista che riesce a coinvolgerti tanto. Dopo Come te nessuno mai, Muccino si gioca tutto con L'ultimo bacio. I produttori credono in questa sua lucida riflessione sulla sua generazione, di chi si trova a 30 anni a fare i conti con le responsabilità e la necessità di crescere. Non si sbagliano. 5 David di Donatello, tra cui la statuetta di miglior regista per Gabriele. Dinamiche universali, secondo me, nel modo di amare e di relazionarsi con chi si ama. Eccomi, eccomi! Che è successo? Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché? Calmati! Devi calmarti, sta male la bambina! Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato? Ma lo sai! Cioè? Sono stato con Adriano! Con Adriano? Con Adriano, con Adriano, te lo giuro! Sei un bastardo, bugiardo, schifoso, mi fai schifo! Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui! Pronta! Lui ha scoperto tutto, non sono stato io! Che fine fa adesso la fiducia che avevo in te? Tutti i sogni che avevamo? Che fine fanno adesso? Giulia non ha fatto niente di male. Chi è questo con cui sei uscito? Non è nessuno. Voglio sapere chi è Carlo. Giulia, non succederà mai più, però... Che cazzo è questa? Mi ha tradita. La verità, Carlo, mi ha tradita. Dimmelo! Solo un bacio. Riparo fraterno, conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo, biascichi un malinconico modugno. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 2001 e un Gabriele Muccino poco più che trentenne ha appena diretto il film che l'ha fatto conoscere al grande pubblico italiano, L'ultimo bacio. Quello che gli premeva era raccontare una storia che fosse un affresco della sua generazione, con tutte le sue paure e fragilità. Ce l'ha fatta. Ha preso 5 David di Donatello, inclusa la statuetta come miglior regista, e il film è sbarcato in tutta Europa, ottenendo un grande successo. E mentre Muccino gira Ricordati di me, piano piano qualcuno comincia a vedere L'ultimo bacio anche in America. Tra questi ci sono Will Smith e sua moglie Jada Pinkett, che messi a letto i bambini Jaden e Willow si preparano a una serata tranquilla in casa. Ricordo che quella sera Will aveva portato a casa un film che gli aveva suggerito la nostra amica Eva Mendes. Mi aveva detto: amore, tira fuori il gelato dal frigo, stasera ci guardiamo un film italiano. Io ero piuttosto stanca, i bambini erano piccoli e mi richiedevano un sacco di energie. Ma l'ultimo bacio mi ha catturato fin dalla prima inquadratura. Era così pieno di umanità. Will vuole conoscere immediatamente l'uomo che con estrema semplicità è riuscito a portare in scena i sentimenti di tutti. Sua moglie, che lo consiglia in ogni scelta, è d'accordo con lui. Suo marito deve contattare Muccino, così diverso da tutti i registi con cui ha girato finora, e fare in modo di lavorare con lui a tutti i costi. Giusto il tempo di qualche telefonata, l'organizzazione di un breve viaggio e i due si incontrano a Parigi. Al tavolino di un bar parlano di tutto, cercando di capirsi un po' con le parole e un po' con i gesti. Dal cinema ai figli, dall'amore ai loro paesi, così diversi ma improvvisamente così vicini. Smith, negli occhi del giovane italiano umile ma dalle tante speranze, rivede quel ragazzo afroamericano di Filadelfia a cui Hollywood aveva concesso anni prima una possibilità. Muccino, dal canto suo, capisce in una sola chiacchierata come vanno le cose oltreoceano. In realtà non sanno fare film che costano poco, cioè è un modo di pensare che è grande, e per cui se gli chiedi di fare un film come quello, semplicissimo, per un budget di 10 milioni di dollari, per loro è impensabile. Allora devi farlo fare a dei produttori indipendenti, per cui entra in un altro meccanismo, un altro sistema, che è quello non degli studios ma quello del cinema indipendente. Will e Gabriele si guardano negli occhi e scatta tra loro un'empatia che si traduce in voglia di fare un progetto insieme. Will ha già un'idea, quella di fare un film sul sogno americano, sulla possibilità di riscattarsi socialmente e diventare qualcuno partendo dal niente. Un film emozionante, toccante, che racconti l'amore di un padre per un figlio a cui insegna a non smettere mai di sognare. Per farlo ha bisogno di una sensibilità nuova. Si rende conto che gli serve un'umanità che riesca a riscaldare la sua tecnica perfetta, ma un po' fredda, affinata colossal dopo colossal. Muccino ci pensa un po' e risponde che nessun americano potrebbe parlare del sogno americano. Ci vuole uno sguardo da fuori, di qualcuno che questo sogno ha davvero la speranza di viverlo. Insomma, qualcuno proprio come lui. Smith ne è entusiasta. Ha trovato il suo compagno di avventura. Il rispetto che lui mi ha dato dall'inizio e la fiducia che lui mi ha consegnato mi ha permesso di guidarlo, di strapazzarlo, fondamentalmente di portarlo a fare il film che io volevo e vedevo ogni giorno nei miei occhi. E la sua grandissima statura si misura nella sua capacità anche di essere umile con un italiano che parlava poco inglese, che aveva le idee molto chiare, ma si trovava comunque davanti alla più grande movie star del mondo. Smith e Gabriele Muccino iniziano a lavorare gomito a gomito per settimane, cercando di mettere nel loro film tutto l'amore per la storia che hanno in mente, uno spaccato di società americana nella quale il successo personale è visto come il traguardo più importante da raggiungere. La produzione si fida ciecamente di Muccino, gli dà carta bianca, tanto che lui, abituato agli standard italiani, dove la macchina produttiva va magari anche più veloce, ma le risorse sono imparagonabili, non crede ai suoi occhi. È uno strano territorio, secondo me noi siamo molto molto molto bravi e a volte siamo limitati dopo dal fatto che non riusciamo neanche a pensare grande come loro possono. La sceneggiatura è ispirata alla vita di un personaggio esistito davvero, Chris Gardner, che durante gli anni Ottanta visse la povertà più totale con un figlio a carico e nessuna casa in cui poterlo crescere. Per la parte del bambino, Smith e sua moglie Giada ritengono perfetto il loro primogenito, il piccolo Jaden, che si rivela un grandissimo talento. E quando La ricerca della felicità esce, prima in America e poi nel resto del mondo, il successo è planetario. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Hollywood si inginocchia di fronte a Muccino e Smith e alla loro personalissima La ricerca della felicità. 162 milioni di dollari di incasso negli Stati Uniti, 15 in Italia. In tutto il mondo un totale di più di 300 milioni. Mentre Will guadagna una nomination all'Oscar, perfino coloro che erano stati critici con i film precedenti del regista italiano si ricredono di fronte alla sua performance americana. Qui che è successo viene visto con un grosso apprezzamento, rispetto, e non c'è il senso, quel senso di invidia e di demolizione che poi arriva invece in Europa quando è un successo e magari viene anche ripetuto. Non so per quale motivo, ma si crea un'invidia un po' da piccola contrada. Tra l'afroamericano di Filadelfia e il romano Doc, entrambi partiti da luoghi in cui Hollywood poteva solo essere un sogno, è un vero e proprio colpo di fulmine creativo. Vanno avanti per la loro strada, ma si cercano continuamente. Se Muccino, grazie a Smith, può emanciparsi dal vizio di provincialismo di un certo cinema nostrano, Smith, grazie a lui, acquista un'umanità tutta nuova, che si lascia finalmente andare all'imperfezione. Nel 2008, per la regia di Sette Anime, Smith non ha nemmeno bisogno di guardarsi intorno. Istintivamente alza il telefono e chiama il suo amico, quello che lo sgrida sul set, che gli fa rifare le scene quando, nel suo inglese stentato, non riesce a trasmettere il senso di quello che vuole ottenere, ma soprattutto che lo sa emozionare come nessuno ha mai fatto prima. Come te nessuno mai, sembra si possa leggere negli occhi di Will quando parla del suo compagno di avventura durante le interviste. E per Gabriele, che a Hollywood è costretto a tenere a bada i finti amici che in realtà cercano soltanto un provino facile, Will è come un fratello, un amico, con il quale la strada verso la ricerca della felicità è ancora tutta da condividere. Se riuscì ad amarmi ogni giorno, ci ho messo circa 20 anni per imparare a farlo e sono ancora in quella parte di viaggio che mi insegna a non fare gli errori commessi, a non rifarli e mi insegna a tirar fuori le cose che di me sono importanti e uniche e che in parte ancora non conosco, quindi devo indagare dentro di me e scoprire le cose più importanti, più belle che ancora non riesco a tirar fuori. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Altri destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.